Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Magazine che ci hanno tenuto compagnia durante il weekend, iniziano puntuali o quasi, 8.06 minuti che scoccano in questo momento di lunedì 15 gennaio 2024. La parola protagonista, dopodiché la memoria, poi oscilleremo tra arte e letteratura per dare il via a questa settimana. Prendiamo la lettura del Corriere della Sera, inserto che potete trovare anche durante la settimana perché resta in edicola, come consiglio a tutti gli altri inserti. Nel dibattito delle idee, la parola, la lingua dell'odio, le parole sono diventate il campo di battaglia della politica, il noi contro voi. Oggi ne abbiamo avuto un esempio concreto e la categoria del politicamente corretto appare inadeguata ad affrontare la questione. Meglio pensare a un uso civilmente responsabile o umanamente rispettoso dell'italiano. Allora, intanto impariamo l'italiano, io per primo, e poi dopo possiamo anche avere un motivo di approfondimento, perché ciò che si verifica, come mostriamo in queste pagine, è una normalizzazione dell'aggressività, aggiungo, a discapito dei contenuti. Contro ogni tipo di censura da sempre, contro ogni tipo di limitazione per quanto riguarda ogni espressione, ma anche critico nelle derive che possono arrivare nei contenuti di questo articolo molto all'acqua di rose. In partenza dal Corriere della Sera si arriva a un'analisi che da qualche anno a questa parte la lingua è diventata come un agone, sempre meno presente nei circoli, nelle sezioni, nelle piazze. La politica si è lasciata dettare l'agenda dai colossi della comunicazione in rete, anche perché la parola dettata in maniera immediata, più che primaria, primitiva, dà evidentemente una capacità di fruizione maggiore rispetto al contenuto articolato. Tutto ciò nel digitale ovviamente trova terreno fertile e anche più facile, ma è apparentemente più innocuo, è tutt'altro che innocuo. Ma restiamo alla nostra quotidianità, no? Io sono un sostenitore degli auguri a te e famiglia, che sono diventati invece un motivo, per così dire, di noia, banalità, ossequioso, formalità. Ecco, invece, secondo me, che sono un sostenitore della buona educazione e della cordialità, sono, non dico piacevoli, ma allo stesso tempo di certo non sono né noiosi né banali, come chiedere permesso per entrare in un locale anche se pubblico, come può essere un bar, cosa che io faccio regolarmente, salutare per primo e durante il congedo e la conversazione ringraziare se ricevo qualcosa, anche se ne sono uno che fruisce un servizio a pagamento, per ringraziare ovviamente a chi mi sta portando questo servizio. E per me tutto ciò può sembrare, no, una formalità, ma non è una formalità secondo me. Ovviamente la deriva di tutto ciò porta a travisare le cose, ad avere un capovolgimento di fronte, dove tutto questo è noia, è banalità, è qualcosa che è un fronzolo inutile. Secondo me resta un aspetto fondamentale nel diversamente normale, che è una parola che a me piace tantissimo. Tra l'altro, la deriva di tutto ciò può arrivare, e non stiamo parlando di politicamente scorretto, politicamente corretto, censura e quant'altro, può poi arrivare dall'altra parte ed essere motivo di aggressione senza contenuto, oppure di un linguaggio non proprio corretto, come ho già detto, a discapito di un contenuto che potrebbe essere costruttivo anche con chi non la pensa esattamente come noi. E nel dibattito delle idee si procede per poi arrivare all'arte, di cui parleremo tra poco, perché una frangia di questa argomentazione, ad esempio, può essere all'interno dei testi nella musica. Sesso, soldi, violenza, parole in trap, strappola le linguiste. Al di là delle canzoni serve un'alfabetizzazione affettiva, l'ossessione per i like è soprattutto un dato dei nostri tempi. I testi espliciti e gli atteggiamenti degli interpreti hanno contribuito a mettere sotto esame un genere musicale. Il rebus è: se i brani ispirano comportamenti o piuttosto viceversa. Indubbiamente i contenuti irripetibili che qui sono riportati a pagina 4 della lettura del Corriere della Sera hanno ovviamente motivo non solo di critica ma anche di preoccupazione per quanto riguarda un linguaggio che parla a una realtà assolutamente primitiva, immediata, dove il turpiloquio diventa qualcosa di usuale e anche, perché no, ma dai, in fondo, no, si dice, è un simpaticone, è uno che le dice chiare le cose, è uno che va controcorrente, è un ribelle. Tutti questi sono gli aggettivi positivi e propositivi per chi fa uso di questo linguaggio, come ho già detto, scurrile, se vogliamo, anzi senza il se vogliamo, che è scurrile, mentre invece viene preso come noioso e formale chi ha una certa, perché no, non è una brutta parola, educazione. Resto diversamente normale e, come ben sapete, certamente anch'io, chi mi conosce lo sa, ho delle modalità ben diverse al di fuori della diretta, ma restano sempre all'interno di un contesto di rispetto e di ruolo. Questo per partire con i magazine, dal Corriere della Sera alla lettura per quanto riguarda il linguaggio dell'odio. Che scrive, ma come parla bene lei sul politicamente corretto? Ecco, diciamo che io parlo con voce di villaggio, è da recitare questo messaggio, è arrivata dopo questa chiosa con cui hai portato la co-conduzione ai magazine. Intanto ti do il buongiorno. Beh, non confondiamo il politicamente corretto con quella che è un'educazione, è la cosa ben diversa, diventa appunto l'aspetto di conversazione precedente, sono due cose diverse. E anche i diversi momenti di confronto e di dialogo e le argomentazioni di dialogo, poi ovviamente se c'è una continuità e un adoperare un certo linguaggio per essere così ragazzi alternativi, ecco, questo non è esattamente nelle mie corde, anzi tutt'altro. Poi invece se dall'altra parte in maniera atipica c'è ancora qualcuno che corrisponde a determinati messaggi confusi adesso con banalità e qualcosa di noioso, ecco, per me invece è tutt'altro, è una persona diversamente normale. Com'è educato lei? Beh, sì. Questa volta l'ho letto un po' con la voce del più grande intellettuale del Novecento, come ben sapete, per me Paolo Villaggio, di cui porto sempre con me una foto nel portafoglio, è un'icona, è un'immagine, sempre comunque ha saputo interpretare, cambiare il linguaggio, dare una voce e una critica autocritica assolutamente fondamentale, un insieme tra Chaplin, Pasolini e Dostoevsky, un autore, un interprete di quello che non ci vogliamo sentir dire, ma che invece è costantemente presente nella nostra quotidianità. Parliamo di storia, letteratura e un insieme di tutto ciò che troviamo sulle pagine di due nuove uscite. Una che vorrei portare, non ho ancora deciso, però ovviamente sia su Alias che Tutto Libri ve ne è un'approfondita anticipazione. È uscito in questi giorni l'ultimo lavoro del grande Julian Barnes, il vincitore della prima edizione del premio Pellegrino. Il titolo è un nome e cognome, sempre per Einaudi ovviamente, Elizabeth Finch, l'eredità della professoressa e la sua verità su Giuliano l'Apostata. Ecco, per me Giuliano l'Apostata è un altro protagonista della storia, veramente non dico importante ma ben di più. Comunque resto alla narrazione di Barnes. Neil si iscrive a un corso di cultura e civiltà per adulti tenuto da una docente enigmatica e fuori dagli schemi. Lui ed Elizabeth Finch diventano amici e quando muore gli lascia controverse teorie e un libro da scrivere. Beh, Giuliano l'Apostata è questa figura che ha riportato l'ellenismo in una Roma cristiana facendo ricostruire templi e cultura che si rifacevano all'antica Grecia in maniera quanto mai coraggiosa, è molto coraggiosa. Lui, non un guerriero, fu portato in battaglia e ovviamente fu ferito a morte, come capita a tanti protagonisti quando poi si tratta di andare in una situazione a cui non appartengono come percorso di vita, ma come filosofo e come intellettuale. Giuliano, poi definito l'Apostata, uno dei più grandi, assolutamente. In modalità di conversazione fantoziana non consiglio ma obbligo la lettura di Giuliano, edizione Fazzi di Gore Vidal, una biografia romanzata appunto dove due allievi di Giuliano oramai in tarda età arrivano a pensare e a conversare in maniera epistolare e se avesse ragione Giuliano a riportare una cultura completamente diversa da quella strada che sta indicando Roma con il cristianesimo. E da lì una serie di riflessioni raccolte da Gore Vidal nel libro intitolato semplicemente Giuliano. E ogni volta che trovo questa figura la mia attenzione rimane completamente coinvolta, a quanto pare anche nell'ultimo libro di Julian Barnes. Vedremo, insomma, adesso lo sto portando a termine e se valuteremo di inserirlo insieme a Silvia Albertazzi, che conosce di persona Julian Barnes all'interno dei magazine, e il Voltiamo Pagina, la rubrica letteraria, ovviamente ne daremo approfondimento, e non solo, anche chiaramente in palio al 333-180-9494 per voi ascoltatrici, ascoltatori. Altro lavoro di cui ho una prima edizione che uscì per La Tartaruga, questa casa editrice molto particolare, ritratto con molti inediti della coppia Scott Zelda Fitzgerald. Stiamo parlando anche in questo caso di una raccolta epistolare radicata nei litigi, nell'invidia, nei tradimenti, lettera fra loro e non, la parte inventata della vita. Questa edizione è per Feltrinelli. Fra gli interlocutori, l'editor Maxwell Perkins, l'agente Harold Ober, Hemingway, i Murphy, modelli per i personaggi di Tenera e la notte, altro capolavoro, è nella prima pagina di Alias, edizione domenicale. Beh, per quanto riguarda Scott Fitzgerald e Zelda, due grandissimi in una storia d'amore stupenda, eh? Atipico oggi, un regalo atipico, ve lo regalo io. Scott Fitzgerald scrive un romanzo dove protagonista è un grande. Chi è questo grande per Scott Fitzgerald? Al 333-180-9494 e per voi un libro a scelta di Scott Fitzgerald che magari, ma lo voglio leggere questo perché lui è un grandissimo scrittore, assicuro, beh certo non devo farne recensione io, ci mancherebbe, gusto personale, comunque uno dei capostipiti della letteratura, in questo caso il libro protagonista del grande puntini puntini puntini, è un po' un manifesto che se vogliamo fare intersezione con l'arte, con lo stile Liberty. Beh, se mi scrivete sia il nome per completare il titolo di Scott Fitzgerald e allo stesso tempo avete un libro che non avete mai letto di Scott Fitzgerald ma che vi piacerebbe leggere, mi prendo l'impegno io di procurarvelo. 333-180-9494. Scott Fitzgerald, il grande. Di Pino, te lo meriti tutto, guarda, è il grande Gatsby. No, Andrea, non è il grande Lebowski, no. Quello è un altro personaggio, seppur grande. Sai che preferisco il grande Gatsby, io però. Bello vedere a confronto i due campioni, eh. Hai mai letto? Lo conosci di nome o hai mai letto il grande Gatsby, Dino? Perché se non l'hai letto, te lo faccio trovare in libreria Ubik ed è un capolavoro assoluto, eh. Brano di Hefner remixato dai Four Hero. Intitolato Every Day, ogni giorno. Oggi è lunedì, inizia la settimana. Con i magazine abbiamo dato qualche anticipazione letteraria. Letto tempo fa e se non erro dovrei averlo, allora dammi qualche consiglio tu oppure mi occuperò io di ripagare la tua prontezza nella risposta. Queste linee di basso con una ritmica che a volte sfiora un ambient solo, drum and bass dei Four Hero in questo remix è molto intensa, è un brano di prima mattina anche se già sono le 8:27 minuti, quindi a ridosso della pubblicità torneremo con i magazine a parlare di memoria. Eccoci qua, come l'altra volta era il tempo protagonista del nostro approfondimento, chiamiamolo filosofico, in questo caso è la memoria. Pick up the pieces ci porta alla pubblicità. Fai tu comunque, mi fido. Adesso non esageriamo. Mi fido di te, Willy, ecco perché maestro mi sembra un po' esagerato. Comunque, grazie. interessante l'ultra oltre nei magazine del Manifesto, nell'edizione del sabato, alias l'inserto culturale allegato al Manifesto stesso. Ha raccontato la misurazione del tempo unito alla Domenica del 24 ore con la figura di Quirico Filopanti, che non è solo un nome dato a un viale di circonvallazione di Bologna, ma è anche questo estroverso e originale intellettuale felsinio, patriota, stiamo parlando dell'Ottocento, che poi fu esiliato in Inghilterra, che propose di dare 24 suddivisioni alla terra per avere le idee più chiare nella misurazione del tempo. Poi questa idea fu affinata, ovviamente, era in Inghilterra. Mi viene da pensare, ecco perché si parte da Greenwich, ecco, questa è una supposizione mia, Probabilmente priva di ogni fondamento, però sì, insomma, quando ho letto che la sua idea viene affinata in Inghilterra da questa suddivisione in 24 per dare l'idea delle 24 ore giornaliere, i famosi fusi orari, e da lì mi è venuto in mente, e guarda caso, partono proprio da Greenwich. Beh, direi che c'è una relazione fra tempo e memoria, e lo troviamo, come ho detto, come argomento principale d'alias del Manifesto, la vita eterna dei ricordi. Con l'aiuto della memoria sarai un dio e non un mortale. È un contenuto del rito dionisiaco, è una prassi, è un passaggio nel rito dionisiaco. E qui mi rifaccio a Giuliano l'Apostata, di cui da notizia Gore Vidal per quanto riguarda l'epoca in cui per breve tempo ritornò l'ellenismo a un cristianesimo già affermato, parlando dell'antica Roma. Memoria, vita, Dio sono la conquista misterica contro l'oblio, contro la morte. Recuperando l'abisso del passato, l'uomo si identifica con Dionisio. È così un filosofo, Giorgi Colli, introduce c'è la visione antica che lega la rinascita, la memoria, e in ogni spiritualità vi è l'idea di memoria, vita, rinascita. Ad esempio nel cristianesimo la resurrezione dei morti nella carne attraverso il ricordo, ritualizzando vita, morte, resurrezione dello stesso Cristo. E allora nell'approfondimento a pagina 8 su Ultra Oltre, la vita eterna dei ricordi, e poi ovviamente dopo un percorso iniziale come protagonisti alcuni filosofi che ne hanno studiato questo ponte fondamentale, si arriva alla tecnologia contemporanea dei ricordi nella seconda parte per quanto riguarda l'ultra oltre del weekend. E c'è questa parola che mi ha, che è la composizione di due parole, adesso si usano, che mi ha lasciato un po' così sgomento, è Thanabot. Thanatos, la morte in greco, e bot, il robot della morte. Ma non stiamo parlando di robot assassini, no, assolutamente. Sono tutti supporti che danno la possibilità di dare una continuità al ricordo in maniera digitale. A voi l'ardua sentenza, io ovviamente non ne sono assolutamente così ottimista e allo stesso tempo non ne sono così propenso, sia nell'utilizzo che nella diffusione, però si sta parlando di ologrammi, di registrazioni, di tutto quello che può essere 3D addirittura, per avere una continuità che vada oltre la morte. E qui mi viene in mente la fine di un romanzo, non ricordo se di Asimov, ma non credo fosse Asimov, non sono così ferrato in ambito di fantascienza. Quando tutti i computer saranno collegati tra di loro, il computer principale sarà acceso definitivamente, lo scienziato si avvicina e chiede a questo computer ovviamente la domanda, che è una delle fondamentali, no? Dio esiste, il computer ci pensa un attimo dopo essere stato acceso e risponde: adesso sì, fine. Yeah, yeah, yeah, I'm right on. Well, I tried in New York City, oh, this snow don't try it on. Oh, yeah, I'm working my room. Fatto l'inciso, Sergio, come ad esempio i due quotidiani negli inserti sono Alias quest'oggi per quanto riguarda la memoria, con l'articolo che ho appena sintetizzato, e a seguire ne leggeremo un brano anche dalla lettura del Corriere della Sera. Mi pare di aver detto che la volta scorsa, oltre che sul Manifesto, con la continuità dalla domenica sul Sole 24 Ore, se non l'ho detto, i due quotidiani erano questi, non unicamente Alias. Ai ai ai, signor Longari, Quirico Filopanti era sul Sole, non su Alias. Come si confonde bene lei. No, mi pareva di aver, magari non ha esposto bene i contenuti, quello più probabile. Piuttosto, Sergio, non ho trovato nulla negli articoli riguardanti lo sport, a un approfondimento che vorrei fare con te. Addirittura dal Manifesto nel sabato ci sono diversi motivi nel calcio, di quel calcio come nel basket del Multigroove che piace a noi, per cui avrei piacere magari di aprire una rubrica all'interno dei magazine con te e parlare con qualche pillola quotidiana di approfondimento con i protagonisti dell'epoca. Ricordo la scomparsa del Kaiser Franz Beckenbauer. Non ho trovato nulla nei magazine, se no ovviamente ti avrei contattato per un approfondimento, conoscendo la tua grande competenza, passione e anche aspetto emotivo molto bello nel raccontare in maniera esaustiva e completa la vita di questi protagonisti o i momenti salienti della loro carriera. Tieni pronto però, eh? My mojo working. Oh, yeah. È una mostra invece che vado ad allegare quell'articolo di cui ho parlato in precedenza al Manifesto, ed è sulla lettura del Corriere della Sera. È un'esposizione, come ho detto, all'Osservatorio della Fondazione Prada a Milano, che affronta 5 secoli, dal 1500 ai giorni nostri, di evoluzione di intelligenza artificiale, e si parla di memoria in varie forme e immagina alcune prospettive con una certezza: tutto tende sempre più a manipolarci. Ma guarda un po', la partenza come device, così li chiamano, no? Non vorrei aver interpretato male, ma li chiamano device questi supporti. Si parte da 1500 e sapete qual è stato il primo? A quanto pare sia stata la penna d'oca per scrivere, per avere una modalità, non dico immediata, ma pratica per quanto riguarda la scrittura. Quindi si inizia dal 500 con la penna d'oca, che dava alla scrittura e alla parola qualcosa che potesse mantenere alla memoria, fino ad arrivare ai giorni nostri, rispettando l'estetica e anche la particolarità, per arrivare al nostro presente, come potere e tecnologia siano strettamente intrecciati, dall'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg fino alla creazione della rete e alla diffusione delle applicazioni legate all'intelligenza artificiale. Non dimentichiamo anche Aldo Manuzio, il veneziano che diede forma al libro. Sì, se leggiamo, se abbiamo i libri, lo dobbiamo a questo rilegatore. Certo, Gutenberg è la stampa, ma il formato per riportare queste pagine, ecco, il libro fu Aldo Manuzio nel 1500, nella Serenissima, a dare il via a questo importantissimo, non riesco a dirlo, non è un device, è un libro, punto, basta, fine del discorso. E noi siamo con questo arrivati anche alla fine dei nostri magazine di oggi, per aprire la nostra settimana. Diverse proposte, aspettando Paolo Zanardi, al quale faccio gli auguri di buon compleanno per la rubrica tra basket e filosofia e anche fisicità, ha lanciato l'idea, Paolo, di riportare i fondoschiena e i fianchi più importanti nel mondo della pallacanestro. Beh, un bel approfondimento, anche perché, chiamiamolo col suo nome, il sedere serve nel prendere posizione nel tagliafuori. No, non sto intendendo la fortuna, proprio il sedere, come la ciccia, i glutei, ecco, per dirla in maniera più primaria e immediata. E comunque uno dei motivi del Moved Groove è anche la pubblicità all'interno del periodo cestistico, di cui spesso o quasi sempre parliamo, e questa è un'idea lanciata da Pietro Rossi. Poi, da quel che ho capito, siamo riusciti a rintracciare, ricordate un protagonista degli anni 70-80, Tom Boswell, di cui non si sapeva più nulla, è stata ritrovata un'intervista di questo genio e sregolatezza. Vedremo come mettere ordine tra tutti questi argomenti. Quello che è certo è che domani alle ore 7 ci sarà il Breakfast Club con il Moved Groove, come ogni martedì. Per oggi è di Pen Enciclopedico, Liberi Dentro, rassegna stampa, caffè e paglia, condotto da Mingo and Company, la mattinata di Radio Città Fujiko. E come vi ho detto, alle ore 7 vi aspetto domani a colazione. Ringraziandovi per l'attenzione, un caloroso abbraccio, un buon lunedì, un buon inizio a settimana e anche un buon ascolto dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.